la stanno controllando? No, loro non mi chiamata più. Beh, anche come stanno facendo così, io me la sto regolando da solo, però io sono in grado di farlo, perché già sono tanti anni, quindi so come mi devo comportare, capito? Io se vedo che alta mi faccio 5 unità in più, me ne faccio e via, e lo regolarizzo subito. Già ho capito, ma tu ti fai la pulla di insulina, mamma la prende la pastiglietta la mattina, capito? E non hanno rimasta più la pastiglia, Luca. Questo dovresti andare tu dal dottore e dirgli questa cosa qua, gli dici che per il momento non la stanno seguendo, che cosa deve fare, forse non gli basta più la pastiglia, deve fare punture. Sì, e chi gliele fa? Punto di domanda. Io gli ho detto al diabetologo se c'era una possibilità di dargli la pastiglietta, così mi alleggeriva anche a me, avevo più tempo di fare, ero sempre chiuso in casa, che gliele facevo io. Sto casino già, che gliele fa? Io non se ne sa fare. È una cazzata, la puntura con la penna è una fesseria, basta che la appoggi la penna, non senti né dolore né nulla. Per te è una cazzata, non si fanno con quella della notte, poi se si fa quella della mattina, di pranzo e di cena. Chi le fa? E tu non le sai fare? Torra, certo che le so fare, ma mi ruba tempo a me. Chi è cosa ti ruba il tempo? 5 minuti insomma a fare l'iniezione. E fai che devo travagliare, molti forze, poi che mezzo di a fare puntura e poi tornare al travaglio. Quello è. Via. Non so, però a volte non bastano le pastiglie, anch'io prima prendevo le pastiglie e poi mi hanno dato l'insulina. Con l'insulina mi sono regolarizzato, capito? Adesso lo sai, io ce l'ho sempre un po' alta la mattina, però poi dopo faccio qualche unità in più, me la regolarizzo durante il giorno e fino alla notte tranquilla. E tipo la mattina quanto? 210, a volte 180, dipende. Ma pure voi, da lì 300, 280, 300, 315, 330, la mattina. Tu pensi poi di fare colazione, non è facile, da. Ma alla fine ce l'avevo bellissima, ti faccio vedere il primo coso, calendario, che le segnavo lì, no? Che pure voleva vedere il diabetologo. Erano perfette. Anche 100, 110, 120, 130. Cazzo, ma va, 4-0 è purtroppo, è un bel. Infatti ieri, cazzo, sono rimasto a casa, gli ho misurata io. Ho detto, scommetti che tu vai a glicemia, poi me la colgo dal sangue, quando è troppo chiaro, o dice, ha troppi zuccheri, il sangue te ne accorgi che è chiaro, è acquoso, c'ha troppi zuccheri. Allora, dipende, allora. Due sono le cose, se lei sta mangiando roba che gli può far male è un conto e la deve eliminare quella roba lì, se no se gli sale così è perché non gli basta la pastiglia e allora ci vuole l'insulina e quello dovresti andare o chiamare il diabetologo tu e dirgli la situazione come e lui ti dirà cosa fare, anche per telefono va bene. Ma se ho chiamato non mi rispondo. Cosa ti posso dire, il medico, quello, ma come si chiama, la guardia medica, le fai vedere la guardia medica quando vedi che è alta, la fai venire e le dici che cosa devi fare. Io una volta mi è salita lo stesso, a 500, mi è salita, però così, sono andato a mangiare la pizza e mi è andato a dare in picco, boh. Forse perché ho bevuto anche la birra, tutto quanto, e mi ha fatto male il mirto, eccetera, eccetera, tutto zuccheri, no? Mi è salita un mezzo. Ho telefonato alla guardia medica e mi ha detto, faccia una cosa lì, quando vede così si fa 5 unità in più. Se vede che è ancora così ci richiama. Invece ho fatto quelle 5 unità in più e mi è calata di brutto, capito? Se ti vuole mangiare la pizza, ti vuole la birra, ti vuole la birra, un mirto ormai è stata, cazzo, carboidrati, poi gli zuccheri nel mirto già, No, vabbè, è un casino, poi mamma non fa manco movimenti, ma si tocca subito, non vai a cucciare, no, sul letto devi salire, vai. Mangia circonica, non ci fa movimenti, bisogna fare movimenti già, anche per quello. Certo, bisogna anche muoversi, io vado col cane, passeggio, faccio, io a volte ce l'ho anche a 98, ce l'ho regolare, però la mattina mi sta alzando, anche perché è colpa mia, perché a volte mangio presto, poi mi viene fame, mi viene voglia di concedere qualcosa, allora mi prendo, quelle patatine rotte del formaggio, queste cose qua, e mi sboccoscerò con quelle, guardo il televisore, capito? È quello che mi futti a me, se no io ce l'ho sempre regolare durante il giorno. Lo so, tanto di fare, tu te sei fare, malino, troppo, un casino, è un casino, e poi lì c'è anche problemi a cuore, è un casino, mi già, ma che devi venire a che cosa, guarda, è quello, un casino, non è facile, dai. Perché mi trovo alla fine da solo, ecco. Mi trovo da solo, so quello che devo fare, perché me la son curata io, da quello mangiare io, mangiava bene, mangiava minestrone, una cosa sana, poi frutta, invece di mangiarne un mandarino ne mangiava mezza mela, allora andava banani, mandarini, frutta, chimela, pere se ne mangiando a quintali, che la pere è molto dolce, una no, metà se ne mangia 100 grammi, mi sa, ne mangiava una già, non va bene. Ma sta facendo il latte, non lo so. Passo io domani, chiamo, vedo un po' se mi rispondo, vedo un po' cosa mi dicono. È che per portarla sono anche a piedi, tocca portarla entrambe, un casino. Ma meno che faccio lasciare la macchina da Marina. E seguita a volo, perché quando il diabete sale, specialmente se è malata di cuore, ti fa venire l'infarto, stai attento, ictus, infarti, tutta questa roba qua. Se c'è troppi zuccheri, circola il sangue zuccherato e va a tutti gli organi, è quello il problema. Se invece viene curata e riesci a abbassare la glicemia, vive tranquillamente. Lo so già, faglielo capire. Allora lui, io la dieta l'ho provata, l'ho fatta alla lettera, l'ho fatta per lungo tempo, addirittura sono sceso di 50 kg, non ti dico altro, un periodo, non mi riconosceva nessuno, però poi ti viene la crisi d'astinenza, la notte mi sono alzato, poi giovane il frigorifero, grazie alla mia fame. Diciamo che ti devi regolare mangiando, se ascolti alla lettera quello che ti dicono loro, uno che ti cambia il carattere, vedi gli altri mangiando, carta che buona questa, e ti viene la malinconia di bene, cambia il carattere. Due, non ce la fai, vita naturale durante a stare sempre a dieta, quello io la capisco perché l'ho fatto, e poi il diabete fa venire fame, e quello lì è la cosa brutta, perché ti bide a gusti, ti bide a fame, il diabete non c'è niente da fare, ti prende a fame, devi regolarti tu, devi uscirtene, non mangiare, cercare di fare altre cose, perché sennò è una cosa allucinante, ti prende, ti viene un po' di fame. Vabbè, abbiamo un po' monopolizzato, tanto ci sei. Ma sai che tu non andrai a mangiare? Lo so già, cosa vuoi ti dico? È che non c'è manco insulina, quella giornaliera, che era scaduta, ce l'ho buttata. C'era solo la Lantus, quella della notte. Infatti la notte ne trovaci un po' di 26 in più, giusto per così, un po' cala. È un casino. Adesso domani cerco di chiamare di nuovo, insisto, se mi faccio un salto io, me ne frega un cazzo, mi metto la mascherina, doppia mascherina e vado direttamente di là. Ascolta, e di giorno che cosa faceva, che insulina faceva? Boh, ce l'ho veramente, me la ricordo già. Io le ho di insulina, se ti serve una penna te la do, non c'è problema. Oh già, allora l'altra era... Era grigia scura. Era grigia scura la penna. No, marrone. No, grigia scura. Allora non è quella che uso io, ma... La Lantus, anche quella che si uso io, se non mi ricordo come si chiama, è venuto un lapsus. E comunque in ogni caso te la danno, perché te la devono dare, perché il diabetologo comunica alla farmacia e al dottore quello, le quantità che ti devono dare, quindi te le danno lo stesso, io le prendo lo stesso. Anche avere la dottoressa di casa adesso è un casino, cazzo, devi già a telefonare, quella si rompe le scatole perché sta facendo ambulatore, allora me lo dica lì cosa devo fare. Prima mettevamo la letterina con tutte le medicine, ma se io li devo parlare per certe cose, non è che posso venire la letterina, io voglio andare di persona e parlare con lei. Allora, se non mi ricordo male, non era... Allora, c'era la dama da qua, c'era la Lantus, allora, l'altra si chiamava... Guarda che è sul grigio scuro... cioè più grigio, un blu rimane, con il caricatore era viola, sul viola, viola, cioè amaranto, dai. No, non è quella che uso io allora, io, la mia è marrone, marrone scura la puntura, sì. Ah, Umarog. Io c'ho Umarog, c'ho anch'io quella. È quella con il tappo viola, con il caricatore viola. No, la mia è grigio il tappo, boh, ma non è viola, è grigio. Il tappo, no, dove tu carichi per mettere le unità? Tu metto il tappo. Sì, comunque, diciamo, deve essere quella lì. Sì, sì, è sul blu, un blu rimane, là, e c'è la Umalo. Sì, Umalo per l'Avantus. E io c'ho le stesse. Ascolta, perché non vai dalla dottoressa e te le fai ordinare queste unità? Vabbè, tu non lo deve vedere il diabetologo, già, non è che posso fare così a capomino. No, ma quelle che fa durante il giorno fare le deve, non era ordinato il diabetologo quelle che fa durante il giorno. No, il diabetologo gli ha dato la parte di dieta. Però la dovrebbe vedere lì, infatti gli ha detto, si dia una regolata signora, si dia una regolata che lì è troppo, è di nuovo ingrassata, è grassa, amici, è pericoloso, è lì, amici, è pericoloso, è pericoloso. Boh, vabbè, lei anziana adesso, dice che me lo va, si va, fa dieta e coso. Lo so, e poi diventano golosi come bambini, mangiano i dolci a quell'età, si nascondono i dolci e si rimangiano. E poi qua c'è un ignorante dentro casa, va, per carità, è avvicinante, mamma mia, io sto sopportando, non li metto mai addosso, me lo faccio per mamma, se la c'ha due, non è di pieni di coi. Vabbè, purtroppo, non siamo tutti uguali, no? Beh, io, grazie a Dio, sono sano, speravo che non venga anche a me, chi lo sa, purtroppo la vita è così, e posso mangiare ricco io, mi do anche la regolata, perché il mio paese è sempre uguale, dai 79, 20, vabbè, quando mangio arrivo anche a quasi 80, ho il pigiama, vabbè, ho le scarpe, molte volte penso anche con le ciabatte, vabbè, intorno agli 80, 79, 7, capito? Sono sempre lì. Poi quando sono a digiuno ne peso 79, 78 e 8. Sai mio padre a me quante volte mi diceva mangia di meno, che poi ti viene il diabete come tua madre. Mangia di meno, e poi mi dava un bel sulle male quando mi diceva così che stavo mangiando, e io mangiavo con gusto, lo dico la verità, ero di buona forchetta. E mi diceva mangia meno, lo vedi che stai mangiando troppo, cazzo, quante volte me l'ha detto? Perché io non mangio un bel, quando mi guarda, inizia a mangiarmi un piatto di pasta, ma un piatto di pasta, ci aggiungo il sugo sopra, ci aggiungo formaggio, ok, mangio un bel piatto di pasta, poi inizio, un piatto di pasta, magari c'è il pollo, mangio un pezzo di pollo, e poi dopo il pollo, insalata, una bella insalatona, ci metto l'olio, ci metto il sale, e poi frutta, mandarini, e molte volte li mangio con cacomera, molte volte mangio mandarini, sempre a pranzo, mandarini, no, cacomera, e a pranzo la banana, cioè mi corico, poi vado subito a coricarmi, a tagliarmi, ed è sbagliato, mangio un bel, poi cioè, mi sto coricando strapieno, ed è sbagliato già. Quello sì, perché non hai modo di digerire bene quando tu ti corichi così. No, io prima non ne sto mangiando. Io gli sono andato a mangiare al sushi. E ho mangiato un po' di ghisci bucari. Vabbè. Mio figlio subito, cosa? Adesso è un po' che piace il sushi a Marco. Ui. Pucci, che cosa schifo, non c'è cosa più schifosa. Ma l'hai mangiato? Ma perché l'ho assaggiato, fa schifo. Ah, ma ci sono le cose buone. Se mangi i gamberoni fritti, le anguille attorcigliate con le alghe, pure le alghe in salata, cazzo, sono ben buone. Secondo cosa mangi? A me non mi piace il pesce crudo, quello non lo mangio, mi nausea. Infatti il sushi è quello col pesce crudo, no vabbè, non so cosa che piacciono a me già. Mi mangio l'insalata quella nostra, l'iceberg, vabbè, nostra, non è nostra, non è, quella la fanno qua. L'insalata la lattuga, non voglio mangiare queste schifezze. No, pucci. Per davanti. Cosa tu? in mezzo all'anchi voi, Sarro, mamma mia! L'ha già assaggiato una borsa, Perché non le sapete mangiare, non sapete scegliere le cose buone. Se tu sai, conosci il sushi, ti scegli quello che ti piace e mangi come la roba italiana, perché ci sono gamberoni fritti, sono buonissimi, ci sono le anguille attorcigliate con le alghe, sono buonissime, ci sono tante cose buone, ci sono delle cose che magari non piacciono perché sono particolari, però anche le alghe in salata sono buone, io le ho mangiate al sapore di mare. Sì, aspetta che fra poco mi gioco a prendere un bel piatto di gigione. Sì, si però fa di ingrassare, invece il sushi non fa ingrassare, vedi come sono tutti già fuori, sono belli in linea. Anche se sei perduto di vende. Non nascere così, è tu. No, vabbè, a parte gli scherzi, no. Non sono cose che mi piacciono, primo. Poi so qualche tipo di posti sono, perché l'ho frequentato per tanti anni, ha già regato le bombole, lascia perdere. No, i giapponesi a me non me lo dire, perché sono pulitissimi. I giapponesi, se mi dici cinesi, magari sì. Ma la cucina giapponese, a parte che io dove vado da cocco, te lo fanno davanti la roba. Non è qua da roba del genere, te la preparano davanti. C'è il bancone davanti dove tu mangi, si vede come la pizzeria che ti prepara le pizze, la stessa cosa. Sì, vabbè. Ok. Ok, già, dai che io vado a girare la pasta, che è quasi pronta. Ci sentiamo, vai. Va a mangiare i gigioni, vai. Che anche sta alla porta di scala, adesso fra un po'. Luca, riprendi. Capito, se sai scegliere le cose, sono buone. Luca. Già, sono uscito un attimo fuori. Vabbè, se ho mangiato, mamma. È un casino, non è facile. Non è facile. Ma sarebbe stato qualche vicino di casa diabetico, magari. Qualche signora che era capace di farsela, ma ci poteva anche fare. Ora scusa, come fa Graziano? Non va a fare la Graziano Buffa a una vicina, perché non se ne sa fare. Era bello, fa un sacrificio, la fai, se è da fare, cosa fai, la lasci così? Ma se non posso, come faccio? Tu non lo dico. Allora di pranzo, cosa ti posso dire, vai un po' più tardi, dove devi andare, di fare iniezione prima. Ma se scusa, ma su Guvora, fuori Sassari, di dentro la sera, come faccio, spiegamelo. Lei deve imparare anche a farsi, è una cazzata a farsi, non è che sia così difficile, lo fanno tutti, se no li fai mettere un dosatore, quello che devi fare l'insulina da solo, in base alla glicemia, quanto c'è l'alta, gli dosa l'insulina. Se faccio vedere il coso dove segnavo le glicemie, erano perfette. Perché? Perché mangiava come diceva il diabetologo, se non usa Edu. Casino. Olu, ma è provato a chiedere, lo conosci questo dosatore, questo che ti sto dicendo, è una macchinetta che deve tenere fissa con l'ago interno, eccetera, eccetera, e gli dosa l'insulina che praticamente le richiede il nostro corpo, quindi se ce l'ha alta ne dà di più, se ce l'ha bassa ne dà di meno, capito? Già, ma ho fatto l'esperienza, anche se tu sei anni e anni, anche io con quei 2 anni, mamma è diabetica, ma sono fatta l'esperienza, quando vedo che c'è una cosa che non va, che magari, gli dice il diabetologo di farne, a pranzo, 10, e poi in base a come vedo la glicemia che è un po' altina, ma ne faccio 12, già lo so, sto regolando su queste cose. No, non mi hai capito. Esiste una macchinetta che tu te la porti sempre appresso. Questa macchinetta è attaccata al nostro corpo e in base alla glicemia, quanto ce l'ha alta o bassa, gli dosa l'insulina, capito? Sì, magari. Sì, sì, esiste. Esiste, la danno anche a certe persone. Questo, il marito di questa mia collega, persone che ha mangiato tutto, mangiato tutto, tanto si è avvelato la macchinetta, la cosa, e non so però che se il nostro corpo soffre, più insulina non fai, più ingrassi, lo sai che fa ingrassare l'insulina? Infatti mamma, è un bel obeso. Sì, più ne fai, più ingrassi, e ti fa ingrassare. E vabbè, purtroppo, bisogna chiedere al diabetologo se è possibile avere questa macchinetta che gli dosa l'insulina. Tanto lì non è che faccia lavori da poterla urtare e fare, sta in casa, fa lavori di casa, ma non è che faccia lavori che io per dire non l'ho mai messa perché al lavoro non potevo tenere, prendi un pacco e spacchi tutto quanto, secondo come te lo lanciano te lo fanno. Ma il discorso è questa macchinetta, dove va attaccata, la faccia? Va, non lo so dove l'attaccano sinceramente, però so che viene attaccata e ti dosa l'insulina in base alla glicemia, quanto è alta ti dosa l'insulina. Ma un casino, mamma, perché mamma sta a girare che ti gira sul del letto, come cazzo fa? No, ma non è una cosa che esce così, no, perché tutti quanti, quelli che l'hanno messa, c'era il marito di questa mia collega, se l'ha fatta mettere perché era stufo di farsi i buchi, questo e quell'altro, invece dicono un buco, fai tutto, te lo dosa, ti dosa tutto lì, poi quando finisce l'insulina, non so come sia, te la devi ricaricare e basta. Adesso mi informo, vediamo un po', ma non penso che questa cosa andrà bene a lei. Poi va a chiedere al dottore, perché tu dici che sei limitato nel potervi fare la cura, nel potervi fare le iniezioni a certe ore, quindi lei è anziana, ha paura magari a farsele, ma non fanno nulla, te lo dico io me le faccio in pancia, me le faccio nelle cosce, me le faccio nel muscolo delle braccia, a tutte le parti. Lo so, già lo so, aspetta un attimo, ehi, questa qua, esci a vedere. Sì, la Umalo, che sì, già è quella. Vediamo un po', quanto costa, no? Porca paletta. Fanno qua su internet. Allora. Aspetta. Allora. Faccia. Sì, 47. 30, 40, 38. Cazzo, porta un bel. L'hai vista? Che cosa? La macchinetta? Aspetta, mi lascio l'altro guarda. Ah, ecco, sì. Sì, va agganciata la cinta, va. E poi c'è uno scettubicino che è attaccata alla pancia. Sì, già l'ho vista. E la boccetta c'è già. C'è una boccettina. Sì, l'ho vista. Vabbè, là, Luca, dai, ti saluto che dobbiamo mangiare, là, che qua c'è Marco, adesso mangiamo e poi porto giù il cane, là. Ci sentiamo, Lu, prova a chiedere al dottore, chiedergli se si può mettere questa cosa, che forse è la cosa più pratica, ti disimpegna tante cose. Adesso mi informerò, là, grazie già. Dai, noi ci sentiamo più tardi, sono domani, ciao. Ciao, Lucia, ci sentiamo. Attenzione 10, c'è qualcuno, cambio. Andiamo, cazzo. Aspetta, attacco. Adesso tanto, porti un giro con l'elicottero. Tu va anche l'elicottero, vedi. Aspetta. Vai, va. Andiamo, cazzo. Bebe. Attenzione, Antonio Uomolino, se tu ascolti Luca, gamba. Sento Luca! Oh, si chiama Caffarroggio, fratello, non ci sono problemi, dai, la cosa è bella qua, capa! Quello scoppietta, eh! Anche Chris, se avrà avuto i soldi me l'avrete andata a riprendere! Caffarroggio, non ci sono problemi, già è qua, tutto parcheggiato, dai! Positivo, capa! Caffarroggio, dai! Anda bello, è una cannonata che sa parecchio, si a fondo scala, sì. Io ti sentivo sempre con questo qua, quando entravi tu, croc, da giù, Lo facevi pompare, cava. No, l'altro era, non era quello, no. Ma usavi pure questo? Sì, l'ho usato, non l'ho usato più di tanto. Un altro pompava un bello, 80 7. E quello che c'ha coso? Ma quello che c'ha, come si chiama? Daniele. Ah, quello lì è. Sì. Ehi, vabbè, ma io mi ricordo che lo nominavi spesso questo. Sì. Già me lo ricordo. Ma usavo molto l'altro anche. Ehi, ehi. Giusto a dargli un po' di corrente, dai. Per vedere un po' se la cosa è bella. Ma Claudio, attenzione Claudio Salviero, se tu ascolti Luca qua, guarda. Oh, ma sei attaccato, sì. No, sei attaccato, un giorno fa attaccai io. No. Fammi una registrazione un po' più avanti, dai, vediamo un po' come esce. Cappa. Se ho tratto io questo coso dai nocchi, sblattero tutti i canali. Già funge, funge. Aspetta, magari chi ce l'ho? Chi? È un segnale piccolino, cioè. Boh, lo sento io. Tanto l'ho abbassata ora. Cos'è qua? Mi sono tutti in fuggio, ho ancora regali. Dai, mi piscendo in camera. Cioè, la traversia me la sta facendo in terra. Tu casino, poi a portarla fuori si fa a beffa, si fa a beffa, perché lì se ne va, si butta praticamente sopra le foglie e si bagna tutta. E poi c'è prima di fogliretta. Sì, lo stesso, nell'erba, c'è un rifugio. Pronto sei anche tu? Sì, ti ho mandato già la prima registrazione. Vai! Attenzione Antonio Bombolino, Bomboletto, se tu ascolti Luca qua dal Monte Rosello che ti chiamo, KK. Ecco, te l'ho registrato, te l'ho mandato. Ha detto sì, se mi ritorno in possesso di quelle radio, l'attacchi in occhi guai. Allora ci che intende di matracchi. Ma sei racca. Ciao, no, scusa, mi sto asciugando, diciamo, tutti i fucci. Già pompa. Sì, già pompa, sì. Perché l'altro, l'87, io c'avevo la voce, lo facevo pompare, che cosa amara. Ora c'è un roccio di cobori, sia un bel forte. Forse domani lo smonto, cioè se me lo smonto, me le voglio i pomelli, perché mi fa un po'. Mi senti? Lo fa? Mi sente? È un pochino. Potenziometro. È tutto prodotto. Succede, magari sempre il remo c'è apparecchio. Ehi, ai, tu casino. Vabbè, Cla, già c'è nato, hai. No, c'è nato. Che cazzo, lo no. Sono le 9, tu mi guardo la partita, canale 5, c'è Barcellona Juventus, la notte per guardare la Juve, ma per guardare un po' di sport e poi mi si copri da questa tua. E anch'io sono un po' stanno, ho dormito un cavolo, ma grazie che c'è mia, sai che va mamma. Lascia perdere. Non vuoi tutti, non ti preoccupare. Chi più chi meno. Quello che sta bene per il momento è Bombolino, vero Antu? No, salù. E dico, che non hai problemi, dai, diciamo. Problemi. Persone malate, eccola. No, ne ho avuto abbastanza. Oh. E spero di non averne più e di godermi un po' la vita. No, già ne ho avuto in passato. Oioioi. Dai, ma già sono cose che passano, quello che è successo, ho capito cos'è, ma già sono cose che passano, dai. Mamma mia. Lo so, tu, lo so. Vabbè. Anche io ci sono passato, So quello che ho passato, poi è passato, però mi sa che sta di nuovo tornando. Lo so. Ehi, sono cose che... brutte. E infatti pensiamo a goderci un po' di più, ma cosa? È troppo l'onfia, ecco, quando ci può, è purtroppo i malanni non li fa nessuno. Allora, c'era una tipa che passava ogni santo giorno, forse per accompagnare il figlio a scuola, o la figlia, non lo so. Giovane, mi sembra avuto 40, forse l'età mia, non lo so, 47, lì, comunque, quell'età lì. E ho saputo che è morta, passava ogni santo giorno vicino a casa. Praticamente dice che c'era malata di tumore, poi dice che si è preso il Covid, si è aggravata ed è morta, poveraccia. Lo so. E mia zia è così, sta molto male, sta. Ma porta male davvero a me. Quanti anni ha? È più piccola, era più piccola di mia della povera mamma. Oh, penso che c'ha più di 57 anni, penso. Metà d'età. O forse ne ha 60 quasi. Non me lo ricordo la verità, Non me lo ricordo molto bene, perché non mi ricordo da una all'altra com'è. Mamma mi pare che era la più grande, era. E Puruisa. Mi hanno detto che se ne sta andando. Giovanissima, giovane. Sì. Zia Angela, è quella che abita lì in via Alomonte, via Manzoni. Non lo so chi è altro. Ma tu le tardi che c'hai? Questa Smith, no? C'ho le New Balance. Sono abita, ce l'ho stesso. Come? Sono abita, ce l'ho stesso. No. Diciamo, non sono ormai Adidas, tipo le Adidas, sì. Come ti dice verdi sono le tue. Aspetta, vado la foto. Scatto lucidante. Allora, le trasmette nel genere, aspetta, 140 euro costa. Chi si gocciane? Per Natale. Vabbè, io se ho fatto un bavolato. Bello. Non hanno la foto le tue. Che superstar c'hai tu? So. Sono contento di quello che vi dico, lo dico già perché lo so. Non mi manco, infatti mi stavo mettendo lacci. Qui ci me la metto domani, se non piove. Scappa. Io ti piglio a tuoi che l'avevo preso scontate, l'ho preso, costano più di 100 euro. Puma, che marazzo si è, non me lo ricordo manco io più. O Adidas forse. Sognava oggi, proprio. Oh, Claudio ti ha mandato la foto. Cosa avevo? A Claudio stai dicendo. Ah, scusa. E aspetta. Quando anche a te, sono una piuma questa scarpa, ma una piuma, sono comodissime, belle. Le ho prese in offerta, costavano quasi 70, le ho pagate. Oh, non me la metto. Una sessantina, 58, boh. Che belle sono. Adesso appena che me le prendo anche io. Le hai viste là? Sì, ti ho viste addosso. Io ho anche quelle. Quelle che sono belle adesso. Ho visto tutte le sarmiste, mi ho messo le forme. Queste sono sarmiste, molto belle. Allora, io ho queste qua, poi ho le paia di quelle grosse a banana caro armato, quelle che si usano comunque molto di meno, quest'anno usano molto di meno, poi ho due paia di Adidas, un paio bianco, un paio grigio, di cui una in tela e l'altra sono più avvenili, un paio e l'altra sono diciamo invernali, sono in pelle, semipelle. Poi c'ho un altro paio marron che sono impellicciate dentro, poi c'ho un paio di carrera e in aggiuvotica. Tu mangi che ci sono quattro scarpiere qua, una per l'aria, due mie e una di mia moglie. C'è un po' di scarpe a te, è bello. Poi c'ho le Hogan anche, c'è la stamattina. E io ne ho. Sono preso tutto, io gioco con le coppa. E c'è lo sconto lì a Poganiede, che a Roma, che fa le macchine a tutti, capito? Sono tutti miei tesori. Tanto ho detto qualcosa? Tanto, siete tanto due frazzati, poi non li ha saltati. Ma se stanno già con un paio, già con un altro, io un giorno mi metto un paio, un giorno mi metto l'altro, poi dipende. Mai le uso più volte, sempre le stesse. Tipo quelle bianche le ho già lavate 3-4 volte, 5 volte, ma si mutano subito il bianco, mamma mia, lo odio. L'altro infatti faceva anche una asciuga, quando mai ci ha portato il cane, quasi molto bene, una pazzana che era già tutti bruttati. E allora non la batte, ma ce l'ho messa vicino al termosifone, ma chissà come l'asciuga, questo me la metto domani, stavo mettendo i lacci. Va bene, va bene. Avanti a tutto. Gaffa, gaffa. Mi sono capizzato un cazzo che ne ero portato nel PMR, ero su un canale VHF, ero. Stavo ascoltando quelli dell'autobus, cioè quelli del trada. Cazzo mi entrava il baracchino. Sentita se ci penso che, per carità, almeno carriere. Buono? E io, mi ha aspettato con l'altro, sono scomodo quando giù a fare seduto. Poi c'avevo la sedia a Ginevra, l'ho regalata, perché c'era un mucchettino nel dove ti siedi. Stavo più comodo, no? La sedia, anche se c'ha il cuscino, però sto scomodo. Mi sono nel letto, sto più comodo, aspetta. Ehi, no, io per quello uso il microfono da tavolo. Anche se più lontano mi stai seduto, sto già accendendo la TV. Ma io, canale 5, quel cazzo. Eccolo qua, 1, 2, 3, 4, 5. Mettiamo canale 5, e così vediamo un po' che si dice. Non mi sono sdraiato appena. Ma ti mangia dove? Oh, mangiato bene. Staffa. Ho fatto un bel piatto di gigione. Eccomi qua. E allora avanti. Ehi, aia. Aspetta, già va bene, sì. Come volume, tu sei, va bene, così a 5. Voglia che va bene. E se avviene la registrazione, aspetta. Quella mi manda tutto. Vediamo un po'. Momoletto. Ciao, Cla, ce la risentiamo. Ciao, buona cena e buon tutto. Ciao, voglio un pezzo di computer. Insomma, pezzi portati, monitor. Minchia. Se ho detto questo mobile, ma magari mi rompo le balle, mi dice un po' tutto. Tutto mi, per carità, guarda. Oh, conta che, vabbè, sono pannelli un po' vecchiotti, però costicchiano, se va a comprare su eBay, 70-80 euro ogni pannello LCD. Se fai quel mestiere devi tenere la roba. Cioè, cosa fai? Vai a comprarlo poi, dove tenere disponibile qualcosa. Ma è roba vecchia. Ah, se riesco a comprarmi un nuovo computer, mi compro l'i7 di processore. Mi basta, avanza, viene pure bari bocchi, ne metto un SSD da 500 giga, che ce l'ho già, e porto un signor computer, serio, velocissimo, una bomba. Ma uno da non spendere molto, quanto si può pagare? Un centinaio, tanto, da 15 e 6, ti serve un portatile perché? E adesso appena io vado a Giulidina, me ne serve uno. Senza computer, no, che... E non ce l'hai quello personale? Sì, c'ho quello piccolino, c'ho che lo uso così, già va, però ne volevo prendere qualcuno. Ho capito. Sì, un centinaio, dai, dipende poi da cosa vuoi. Più vuoi, più... cioè, più chiedi e più paghi. Io il computer voglio comprare io, se ce la faccio costicchia, qua stiamo parlando dei 700-800 euro, forse anche 900, però di un i7 di processore, 16 giga di RAM, almeno 500 giga di memoria, almeno, poi se lo prendo un tera ti costa di più, adesso vediamo. Cappa, io vorrei prendere una... si dice, volevo prendere uno per attaccarci anche la console, la DJ, capito? Io vi accedo a voi il computer, chiedevo, io sono in Liguria, poi li ho fatti fuori, tutti chiedono il computer adesso, non è ho... Lo so, va bene, dai, come si dice? Appena che ne capita uno, vediamo di prenderlo. abbiamo qualche soldo. E ci voglio vedere su le trocche, per tutto, soldi già servono, sono molto importanti, si mancano i ghissi, ui ui ui. Allora guarda, aspetta, aspetta un secondi. Allora, usato. Sono già difettose nella loro fabbricazione. Quindi non sottovalutate quello che avete appena sentito, Enrico. Allora, questo qua è ricondizionato dal venditore. Fuochi pirotecnici illegali. Notebook dell'attitudine 7440, Core i7 PC portatile, SSD 250 giga, RAM 8 giga, Windows 10, 400 euro. Cazzo. Ehi, cazzo, ma un i7 però di processore, Antonio. Non stiamo parlando di caramelle. Una bella bestiolina, Poi c'è il gaming Asus, i 7-8 giga di RAM, 1 terabyte di memoria. Questo è, vabbè, in coso, in 31 minuti sono rimasti. E gli hanno fatto un'offerta di 211 euro più 10 di spedizione. Questo è bello, Nvidia 720M. Bella bestiolina. Sì. Mi prigioni luci. Ce ne sono tanti, Antu. Quelli sono tutti all'asta. Guarda, sono i 7, 4 giga di RAM. Una volta l'ho riparato uno, Antu, un i7, c'era la scheda integrata, cioè non era una hard disk, una schedina proprio, da 500 giga era. L'ho formattato perché aveva qualche virus, quando non si stava sto qua, tu dovevo sto computer, ci mette un secondo a accendere, 2 secondi, velocissimo, la pagina di internet l'apre, ma cioè fai prima, ci metti di più a cliccare che aprisci la pagina. Addirittura. Cazzo, è una bestiolina quel computer, una bestiolina. Che si ti appompano già. Soldi ci vogliono. E come cellulare, se vuoi un cellulare buono la devi pagare. Questo sono tutti all'asta, questo è buono, 700 euro. È nuovo però, 4 giga byte di RAM sicuramente. SSD a 128 giga è pochissimo. No. Cioè se c'ha un 500 giga va che bene. Siamo nella media, dai. Poi se da un terabyte è ancora meglio. Questo qua è 128 giga, 330. Ce ne sono tanti, Questo qua, una HP 7, 8 giga di RAM e 1 terabyte di hard disk. Sì. Vabbè. Costicchiano. Però. Poi a tu, guarda, secondo me. Ti do un consiglio. Per il tuo impianto di karaoke o non so cosa è, che fai a fare anche karaoke, ti consiglio un i5 di processore, va più che bene per fare musica. Va bene, sì, ma il karaoke intero non si può trovare. Il karaoke intero cosa vuoi? Karaoke 5? Qualcosa del genere. Sì, karaoke 5 ti legge anche di mp3, se vuoi basi te li muovi su da, tantini vuoi. E hai basi di karaoke? Io ne ho una marea. Non una marea, no, due maree. Allora cazzo ti porto la penna, me lo fai. Tiro le basi, poi vabbè, altro da bisogna vedere il tuo computer, ci vuole un computer, insomma, che poi il tuo non c'ha manco l'HDMI, c'ha VGA l'attacco, nel portatile piccolino. Quello che c'ha là, hai sentito un attimo che lo sto prendendo. Sono in 5650, vabbè, è nuovo, adesso l'ho usato. Qua c'è un i5 notebook del vostro 3350 Intel i5 altri 120 di hard disk, 4 giga di RAM, Windows 16 Pro webcam, 199 più 12 euro di spesa. L'HDMI ce l'ha? Forse è USB, non ce l'ha l'HDMI di portatile piccolino altro. Cazzo, ti giuro che ce l'ha. Vuoi vedere, ti faccio una foto e te la mando. No, manda, boh. Guarda che l'HDMI è quella l'USB, quello sicuramente è VGA. Io non ho mai visto portatili piccolini con l'HDMI, boh, ma ok, gli ultimi usciti. Tu te lo sto mandando, eh. Beh, ragione c'ho, guarda. Sì, è vero, ce l'hai. Boh, ci avrei scommesso, portatile piccolino, quanti pollici è? Da 10? Boh, non lo so, ragazzino. È piccolo, Che marca è? Asus, mi pare. Sì, sì, ce l'ha, c'hai ragione, è vero, hai ragione. Sì, allora, non l'ho mai visto io portati piccolini con l'HDMI. Forse volte quello lì è, diciamo, non dico uno degli ultimi, comunque, è recente, dai, di qualche anno fa. Sì, sì. No. Cioè, ma tu col pennino me li puoi scaricare con quel karaoke? Aspetta, allora. Fammi vedere, mi sei messi qua. Allora, va bene, io qua. Allora, qua la procedura di attivazione. Contatto Sanna. Tanto tiro tu, ne ho un sacco. Porta pennino. Allora, il pennino deve essere, siamo bene. Vediamo, così ti dico più o meno quanti ne ho. E te le porti via tutte. Proprietà. Un pennino, guarda, ci sono 64 giga di tra base e musica. Ma la musica bella, Gli ultimi usciti e tutto. Ehi, ce n'è Antu, ce n'è, questo qua fa karaoke, capito? E siccome quando gli ho resettato ho salvato tutto. Ti procurare una pennina almeno da da 30, no, 32, 64, 128 giga Antu. Coglioni. Dopo la busco. Mi sa che non ce l'ha quasi nessuno. O se no un hard disk ti procuri. Non è hard disk, ti compri il case dei cinesi. Costa 10 euro il case. E ti fa un hard disk da 500 giga. Caffa. Se la trovo ti do il pennino e buttiamo tutto dentro. Adesso ti metto quello che ci stanno. Un pennino almeno da... Io sono pieno di pennini, ma c'è tanta roba mia dentro. Qua ne ho quattro pennini, di cui uno da 60... No, questo da 16 giga. Questi qua sono tutti da 8. E questo da 4. Poi, vabbè... c'ho le micro SD da 16 giga. Poi ho... Vabbè, hard disk anche da 1 terabyte, ma c'è tutta roba mia dentro. Cappa, dai, cerco di buscare una penna grossa, un pennino grosso, ci buttiamo tutto dentro. Ehi, ehi, Antu, ehi, ne ho, tranquillo, ne ho. Non avevo ti dissi, sì, ne ho, però non hanno, ce n'è, va, aspetta. Allora, c'è da anni 60, anni 70, poi c'è mali di gruppo giovani, mali di karaoke, MP3, ma questo è più, casetta. Se l'ha scritto non ci ha messo niente dentro. Esatto, un attimino. Poi canzoni per bambini. Il coccodrillo, là. Poi canzoni sassaresi, canzoni miste. Capodanno, Dance Leo. Karaoke, Egypt King. Karaoke 5, di tutto, è tutto. Quindi sono una marea qui altro. Sassa, va, karaoke. Poi c'è amica cara fan player, ce ne sono tante altre, un bel adesso voglio vedere quanto costa, minimo costerà aspetta, allora vediamo un po', aspetta, vediamo un po' cosa mi dice qua, subito quanto costa. Cazzo, è da 2 terabyte e ovviamente usi per click 2 stasera, lasciala da 2 terabyte. Sì, sì. Moto, da 2 terabyte costa. E ti parte. Pendrive, USB 2 terabyte, 128, 256. Costa 16 euro 90, 17, 20 euro e 50, 2 terabyte, cioè 2000 giga sono. Davvero? 20 euro costa. La compra si scompra e si mette, ma Sassari la trovo. Ah, no, se la paga un patrimonio, su eBay tu, una settimana ce l'hai a casa, quando la vuoi comprare me lo dici, mi fa la ricarica, te la ordino, non c'è problema. Ah, voglio comprare, sì. Questa abbiamo un po', sta qua, 4 giga. Tanti, e poi Ali e Fraser, ovviamente coppie basta, li hanno serena. Sì. E in ti mando un messaggio, aspetta. Ok. Io sto mandando la foto, tanto, aspetta. Ti mando un messaggio al tipo. Allora, tu conta, sono 16,99. Più 3,50. Sono 20,50 euro, più 2 di ricarica, 22,50 euro ti costa, ma la cassa da 2 terabyte c'è la roba, e ti ho tutto quello che ho, e a voi la roba che faccio. E allora va bene così, va bene, se la trovavo qua la prendevo. Ma amico, la fanno pagare il doppio, non stai scherzando. Comunque gli ho mandato un messaggio, se da 2 terabyte, perché molte volte sono furbi, me la compro pure io. Ma fammi sapere, ti do pure di là. Quindi mi voto subito, mi faccio subito un'unica pennina e ci metto tutto lì dentro. Roba di computer, che ballacche. Che avanti! A tu, tu sì! Io sono, buonasera. Ciao tu! Scusa, c'è uno squelch, non ti ho sentito. L'ho dovuto aprire, se no non lo apri. E beh. Addirittura Giuseppe, a quanto te sto arrivando adesso? Un po' male arrivi tanto di radio, sei un po' strano, un po'. Segnale 2! Aspetta, cerco di migliorare, aspettate un attimo, Gamba, magari devi accordarla l'antenna, ma che ti stava cercando? Ti stava cercando Gianni Lubrofetta, mi. A proposito, tanto mi ha detto che se ti sentivo per quanto riguarda quella quell'antenna che mi volevi dare. Esatto, sono tornato ora, devo scendere però, allora non mi pare il tempo giusto. Vabbè, quando sarà che ho... che, come si dice, che scendi, magari ti do il numero, ti metti d'accordo con lui, e già vi date un appuntamento, gliela dai. Ma come promesso? Io mi sono dimenticato, Antu. No, io quando le dico le cose, già lo sai, no? Già conosci gente a cui lo stesso ne ho dato, Ma che malacchia lo stai usando? Chiama Zacca. Cazzo, stai facendo un bel male. Aspetta, sono in dipolo, aspetta un attimo. Capo, forse lo dovrei accordare. Se lo accordi bene, già funziona. Dovrebbe un po' aggiustare la radio, dai. Ieri mi stavo a dire, lo sentivo bene. Ma è abbastanza chiaro, oggi è tutto impastato. Ma si accorda e lo mette bene, già funziona, perché ho notato l'altro giorno che c'aveva lo stesso problema e poi è andato bene. Ma io viaggio e funziona bene, la ringo poi. Sì, quando piove appena appena anche stazionaria aumenta, ma se taratta bene bene bene bene no, non rompe, no, non rompe le palle, capito? Certo, sarà tali bene, sì. Io qua me l'ho dovuto attarare, dentro i nonchimi. Con lo sub piano piano andendo, poi ho capito dove era l'inghippo. L'ho tarata bene, è arrivata 1-1. Vai su, e l'ho messa su. E ho poi meritato a pogare due di coso, ma non li fa niente. Non li fa niente, no. Mi stavo controllando se andava bene questa qua, appunto, ma non va bene. Mannaggia. Non va bene, vabbè, pazienza. Era più sottile. Peccato, la stazione saldante non mi funzionava più, cioè. Non funzionava più il saldatore. Casino. Andava più? No, avevo aggiustato una volta, e sono bruciati delle resistenze, le ho cambiate. Mi dà praticamente questo errore, trattino 5. Cosa di quelli professionali? Proprio professionale no, comunque ho pagato 100 euro. Stazione saldante. Ehi, andare a casa, sì. Ah, vabbè, spezzetti lavori ci vuole. Cavolo, ci vuole. Ci vuole come? Cappa. Ebbene, a tu. A Consulai. Mi pare che Antonio, ancora, sta mettendo a posto le cose. Ehi, sì, ma... la compro anch'io, anzi con la pennetta lì. Faccio la ricarica e me la ordino. Che così vi... Vabbè, poi ne ho... Allora, ne ho una a 32.